Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Arriva con l'iPad in mano e con lo stesso sguardo gelido di sempre. Di diverso c'è che ora la grande spia, nickname di Giuliano Tavaroli, è appena uscito dal processo sui dossier illeciti Telecom dopo aver patteggiato la pena a 4 anni e 2 mesi. Ma la sentenza pronunciata dal giudice Mariolina Panasiti ha anche ribaltato l'impostazione dei PM, facendo cadere l'accusa di appropriazione indebita e chiedendo nuove indagini. Di questo, come delle singole operazioni contestate, del budget della security o di quello della presidenza, parla in questa intervista l'ex capo della sicurezza Telecom e Pirelli. La scelta che è stata fatta, che è stata quella di mettersi alle spalle questa storia pagando un prezzo anche piuttosto alto e anche forse al di là della stessa verità processuale. Sono passati 5 anni, è stato messo un primo punto fermo. A settembre comincerà il processo per chi non ha scelto il patteggiamento. La sua veste in quel caso cambierà, perché essendo uscito dal procedimento a quel punto come testimone sarà obbligato a dire la verità. Possiamo aspettarci da settembre versioni diverse di Giuliano Tavaroli in aula rispetto a quelle che sono state lette negli atti fin qui acquisiti? Premesso che chi ha letto gli atti sa che le cose sono sempre state dette, quindi non c'è mai stata doppie verità e ovviamente continuerò a dire la verità. È vero che in tutti questi anni si è preferito affermare alcune leggende metropolitane del tipo Tavaroli ha protetto Tronchetti, Tavaroli si è fatto ricco grazie al suo silenzio. Bene, queste erano leggende. Io sempre ho cercato di spiegare che cos'era la sicurezza in Telecom e in Pirelli, assumendomi anche le mie responsabilità, che alla fine ho trovato anche giusto pagare. Ma in questi anni è in qualche modo cambiato il suo modo anche di raccontare che cosa succedeva nella security dell'era Tavaroli? Allora, il mio atteggiamento è sempre stato quello. È ovvio che se non ricordo male, dalla primavera del 2007 non sono mai più stato sentito da nessuno. Di sicuro però, se si va oggi a riprendere dei verbali e si confrontano anche con alcune interviste, quantomeno c'è una maggiore ricchezza di dettagli? È merito semplicemente del mezzo. Chiaro che l'inquirente deve accertare la valenza penale o meno di comportamenti. Il giornalista fa la cronaca, quindi è interessato anche aspetti quali l'etica, la responsabilità, sono il contornatore più ampio della responsabilità penale. È stato un po' un leitmotiv di questi anni, una versione sul fatto che avesse un suo interesse a non parlare fino in fondo. Nessun interesse. Prima perché ho sempre stato dato al massimo della collaborazione, questo mi è sempre stato dato atto. Il fatto che io qualche volta abbia richiamato il fatto che si è violata la dignità professionale di tante persone che lavorano per l'azienda, non riconoscendone il ruolo e quindi l'azienda, non riconoscendo l'azienda la responsabilità oggettiva di quelle attività, che è diversa dalla responsabilità penale, ma c'è una responsabilità oggettiva del management che richiedeva quelle attività, che non vivevamo in uno scantinato, che non eravamo avulsi, che non era una scheggia impazzita come qualcuno l'ha fatta apparire, ma era una funzione aziendale con budget, con revisioni, con audit e che svolgeva il 90% della sua attività in attività di sicurezza dell'azienda e non informativa. Ci arriviamo al discorso dell'organizzazione, che è poi un punto centrale anche di queste motivazioni ultime depositate dal giudice Panasiti, che ricorda proprio tutto questo meccanismo anche di fatturazione e di approvazione all'interno dei bilanci dei costi della security. Ma rispetto alla sua distinzione di una responsabilità penale e oggettiva, secondo lei c'è una responsabilità penale dei vertici del management? Non mi sento di essere la persona indicata a rispondere a questa domanda. No? Perché, ad esempio, è corretto che l'utilizzatore di servizi di sicurezza possa essere imputato di corruzione se il suo fornitore in alcune circostanze utilizza la corruzione per acquisire informazioni. Bisogna essere certi, e noi stessi non eravamo consapevoli di molte delle attività, di altre ovviamente sì, e sono state tutte ammesse, che tu sei consapevole del mezzo utilizzato. Allora, è un discorso che non mi sento di affrontare, però diverso è dire che c'era un gruppo di persone che hanno fatto tutto quanto per interesse patrimoniale personale. E questo, con la caduta della contestazione dell'appropriazione indebita, un giudice l'ha messo nero su bianco, cioè quel dossieraggio che nelle prime ordinanze è stato definito come degno di un servizio di intelligence di un paese. Le fa piacere quasi forse? Medio piccolo paese, ma è un fatto che nelle grandi organizzazioni si consumino informazioni per decidere, per capire chi sono i concorrenti e come si muovono, è sotto gli occhi di tutti. Salvo poi, questo poi apre tutto un fronte che riguarda appunto le modalità con cui queste informazioni, certamente, i mezzi con cui le informazioni vengono raccolte, e poi, visto che parlavamo di intelligence, ma ne parleremo più avanti, apre il capitolo del rapporto proprio con l'intelligence classica to court, che all'interno di questo processo ha un nome e un cognome ed è Marco Mancini, che è un funzionario dell'ex Sismi. Tornando a quello che stavamo dicendo prima, cioè la caduta del reato di appropriazione indebita vuol dire che quelle operazioni non erano fatte perché volevate drenare soldi dalla società, ma perché erano inserite all'interno di un meccanismo. Come avveniva? L'ufficio acquisti, ad esempio, era un grande cliente delle attività informative della security, perché l'ufficio acquisti spesso riceveva lamentele di presunte corruzioni, spesso l'audit stesso richiedeva attività informative aggiuntive per comprendere meglio eventuali ipotesi di frodi. Venivano date alla security come fatto da svolgere all'esterno dell'azienda attraverso fornitori. E a quel punto si individuava il fornitore migliore e gli si dava l'incarico. Questi sono i cosiddetti clienti interni, clienti di cui interni, parla il giudice nelle motivazioni. Il capo del personale, no? La dottoressa Panassiti dice: è palese che la verifica degli assumendi era nell'interesse della direzione del personale. Ma l'ufficio del personale, visto che sta facendo questo caso, a sua volta poi riceveva il dossier completo delle informazioni, giusto? Certamente. E faceva domande sulla provenienza di quelle informazioni? C'erano informazioni che però non necessariamente, per chi le riceveva, poteva avere la cognizione certa del modalità di acquisizione. Mai nessuno le ha chiesto da dove arrivassero quelle informazioni? No, nei vari tipi, no, di dossier? Di più. Ho parlato di una sorta di bulimia informativa. Molto spesso lo scivolare verso informazioni che poi escono dall'area tipicamente delle operazioni conoscibili non sta nell'esigenza di conoscere la vita totale delle persone, ma nell'incapacità di decidere dei manager che ricevono, sì, quelle, certo, informazioni. Sì, certo, ma quello è un altro tipo di problema. Quello questo che mi interessa dire, capire se mai qualcuno le abbia chiesto: ma queste informazioni da dove arrivano? No, sono non tutte è mai trasparenti? Successo. Non è mai successo, le dirò di più, che molto spesso ti chiedevano di più, chiedevano più informazioni per assumere una decisione. Magari di fronte a un interlocutore o una ipotesi di business che appariva molto interessante, ma che magari cadeva proprio sul problema dell'etica. Mi faccio degli esempi. Me ne ricordo uno di tanti anni fa, legato al Sudafrica, un potenziale agente dei cavi in Sudafrica, che veramente appariva un soggetto non raccomandabile, ma era talmente interessante il business che proponeva che ci si continuava a chiedere: ma sei sicuro? È importante quella ragione. Questa era la logica che c'era anche dietro, diciamo, dossier su uomini politici, uomini della finanza italiana. Ma vede, qua si è fatto molto confusione. Alcuni profili che sono stati poi trovati erano profili raccolti esclusivamente da fonti aperte, da un giornalista che è noto negli atti, per orientare gli incontri degli executive dell'azienda. Però poi ci sono anche una serie di dossier che non sono soltanto su fonti aperte, ma ci sono casi, non so, tipo? Di De Benedetti. Tipo De Benedetti non c'è stata nessuna, no, adesso non ricordo perché non ero più in azienda, quindi Della Valle, Scaroni. Non mi risulta che in quei profili ci sia una sola informazione raccolta in modo illecito. Può dar fastidio a qualcuno che il suo nome sia stato associato a questa indagine, può dar fastidio a qualcuno che Tronchetti, prima di incontrare, abbia chiesto a un giornalista di fare un profilo della persona, e me ne rendo conto, ma questo non era un'attività illecita. Lei ha citato il nome dell'ex presidente della Telecom, attuale presidente della Pirelli, Tronchetti Provera, che dice: i rapporti miei con Tavaroli non erano poi così frequenti. Quanto spesso vi sentivate o vedevate? Questo non è una domanda a cui so rispondere così precisamente come ha fatto lui, che in aula però ha parlato di 55 incontri in agenda in 30 mesi, che è molto meglio delle tre volte che dichiarò in televisione a Fazio. Qui non ci sono le telefonate, qua non ci sono le telefonate fatte a Ferragosto o a domeniche per risolvere dei problemi o di azienda o personali. Ovviamente non ci sono le convocazioni fatte all'ultimo momento su un'emergenza in Via Negri, mentre magari io stavo tornando a casa. 56 incontri formali, ne mancano molti, diciamo così. Quanti più o meno? Ma non lo so, io non tenevo nota degli incontri. E comunque il rapporto che la sicurezza aveva attraverso la mia persona col presidente era nella gestione strategica, quindi a lui si riferivano i fatti realmente importanti che riguardavano i fatti appunto più di natura generale strategica. Certo che il presidente non sapeva o non gli interessava neanche se la direzione del personale commissionava una verifica sugli assumendi. Di tutte le centinaia di operazioni che sono state acquisite agli atti, quante sono arrivate direttamente sulla scrivania del presidente? Potremmo dire che alcune sono sicuramente attività che sono state svolte per fornire a lui un quadro molto più ampio del contesto politico, economico in cui si muoveva in quegli anni turbolenti. Adesso non so ricostruire quante, ma parliamo di poche. Pochissime pratiche, perché poi al presidente si riferiva al quadro generale, incontri molto rapidi e concisi. Io personalmente gli ho sempre riferito le informazioni essenziali. Quindi i dossier nelle sue mani non arrivavano? Ma ci mancherebbe altro, ma a parte che voglio dire neanche io li consultavo, perché gran parte di queste attività erano operative e quindi venivano discusse con il cliente interno. Ci sono state riunioni, si parlava dei casi, mi ricordo una volta c'era il problema che un fornitore accusava una patologia negli acquisti e quindi il direttore degli acquisti Spreafico, che aveva ricevuto addirittura dal vicepresidente di questa società fornitrice molto importante questa lamentela, attivò una riunione dove era presente lui, rappresenta il direttore generale Wireline, dove era presente il presidente, dove si parlava del caso, di questo caso specifico e delle verifiche necessarie. Un discorso che è diverso per quelle che sono le operazioni che sono più strettamente riconducibili all'entourage anche familiare del presidente. In quel caso come andava? A lei Tronchetti ha mai chiesto lui direttamente a lei di fare delle verifiche? Sì, certo, ci sono due modalità. Quando si parla delle verifiche sui domestici, erano verifiche che venivano richieste dalla segreteria del presidente direttamente alla persona che quotidianamente gestiva le attività di sicurezza del presidente e la famiglia. Segreteria del presidente chiama Casali. Ad esempio. E Casali chiama lei. Casali chiama il fornitore. Dopodiché c'era un'attività che il presidente nel passato, nel corso degli anni, chiedeva a me. Ad esempio? C'era quella verifica che riguardava sua cognata, comunque altri fattori. La vicenda Naginas nasce dal presidente. La vicenda Naginals ritorna più volte anche nelle motivazioni della sentenza del giudice Panasiti, anche a proposito del cosiddetto conto del presidente. Si scrive in quelle motivazioni che attraverso questo conto siano transitati anche 26 milioni di euro tra il 2002 e il 2006 per Naginals. Si è fatta anche un po' di confusione fra una procedura legittima cui si venivano appostati alcune delle spese di sicurezza che nasce nel 2003 con l'ingresso di Pirelli in Telecom e il vero conto della presidenza. Allora, del conto della presidenza non so dire, perché non era una postazione del quale ne avevo contezza, cognizione e informazioni. Lei non ne conosce l'esistenza. Se parliamo di quel conto su cui si parla della consulenza fornita a Costanzo, che mi viene anche contestata in un interrogatorio, dico guardate, questo non è il conto su cui venivano spesate le consulenze di security in Telecom, quello è il conto della presidenza di Tronchetti gestito da altri e non da noi. Un altro dato però è di come il budget per la security nel corso degli anni sia arrivato fino a 120 milioni di euro nel 2004. Credo che nel 2005 fosse ancora superiore. Come mai c'è stata questa esplosione del budget per la security? Innanzitutto bisogna dire che le aziende di telecomunicazione sono quelle che destinano di più alla sicurezza. Si parla addirittura del 6,5 l'utile destinato alla sicurezza. Quello che desta scalpore è che uno degli strumenti di governance che ho introdotto quando sono diventato direttore della security è stato quello di centralizzare il governo dei costi della sicurezza. Quindi le varie società affiliate riferivano al centro il totale delle iniziative di security, degli investimenti e dei costi che noi rappresentavamo poi al management come consuntivo. Perché le aziende... I costi sono aumentati? No, non sono aumentati, sono stati rilevati, che è diverso. prima quei costi non erano raccolti e centralmente gestiti. Poi sono anche aumentati perché a partire dal 2001 in poi le società di telecomunicazione e di infrastrutture hanno cambiato addirittura la loro cuore tecnologico, che ha richiesto investimenti maggiori dal punto di vista della sicurezza di rete. Di questi 120 milioni di euro, se parliamo di costi dedicati alla raccolta informativa, cioè a quella che poi è andata a costituire la somma di quella che a lei piace chiamare dossier, parliamo di 2-3 milioni di euro all'anno. La cifra indicata del costo complessivo è di 34 milioni. In 10 anni su 2 aziende. Se lei diceva che aveva bisogno di andare al di là di un certo budget, aveva carta bianca, non le è mai stato detto alt, stai spendendo troppo? Quando abbiamo avuto il consolidato dei costi a fine del 2004, le posso già dire che nel 2005 siamo stati capaci di fare poi dei risparmi. Ad esempio, privilegiando gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture di rete rispetto ai costi per la sicurezza fisica tradizionale. Da sola la vigilanza e il portierato in Telecom in Italia valeva da solo 26 milioni di euro. Poi esiste un altro fatto. Nel 2003, per poter supportare alcune spese di sicurezza del management, viene creato un conto, richiede che il direttore finanziario sia d'accordo, il controller lo attivi. Su questo conto viene deciso chi opererà, in quel caso Giancarlo Valente, che dipendeva da Gustavo Bracco, che era il suo capo del personale. Accesso un conto con un'autorizzazione alla firma spesa unica di 250.000 euro firmato da Buora, e Valente attiva questo conto per le spese di sicurezza del management Pirelli che si trasferisce a Roma. Su quel conto finiranno poi, per ordine di Pirelli, alcune delle spese informative per l'acquisizione del pacchetto di controllo di Telecom da parte di Olimpia. Questo è il conto su cui poi finiranno le attività informative, ad esempio contro la Kroll. Ma il conto delle spese di sicurezza gestito da Valente dall'inizio alla fine di questa storia, che non è il conto del presidente. Ci sono i fatti. Secondo lei non sono stati cercati fino in fondo i fatti? Non sono stati capiti probabilmente fino in fondo i fatti. Ci vuole una competenza molto aziendale. Una volta accertato che in questo processo non si parla di intercettazioni, cosa che pure era stato il grande spettro, però si parla di alcuni applicativi tipo Circe o tipo Radar, applicativi che permettono una consultazione senza lasciare tracce. Perché si sente il bisogno di avere un sistema che permette una consultazione che non lasci tracce? Circe era l'applicativo per la consultazione, se non ricordo male, dei tabulati al servizio dell'autorità giudiziaria. Piccola parentesi. Prego. Anche se era certificabile, era possibile dall'interno vedere le utenze sotto controllo? No, assolutamente no. Non è mai stata contestata a Telecom la violazione del segreto. Questa indagine è nata come il timore che all'interno di Telecom, ce lo possiamo dire oggi, ci fosse una grande centrale di ascolto. Super Amanda. L'indagine, ritengo, che nasce innanzitutto con questa prospettiva. Radar. Radar è un'applicazione che non è un'applicazione della security. Questi applicativi hanno varie finalità di controllo della rete. Certo, dal punto di vista della tutela della privacy dei clienti, qualche preoccupazione la possono generare. C'è sempre stato un grande commercio dei tabulati. Radar era un'applicazione di rete che serviva a gestire il traffico, a cui a un certo punto la funzione security di TIM ha accesso. Cioè non si poteva risalire a chi avesse interrogato il traffico. Però sono delle informazioni sensibili. Certo. Ma perché c'è la necessità di avere un sistema che permetta a chi lavora all'interno dell'azienda di poter andare a vedere chi parla con chi? Ma guardi che questa applicazione viene installata da un signore che è responsabile della rete per ragioni tecniche. Sistemi che servono a monitorare dal punto di vista del funzionamento la rete. No? Quanto spesso capitava che dirigenti o anche lei stesso abbiano chiesto di avere delle informazioni su delle persone? Per quanto mi riguarda, forse in una circostanza o due. Ci può dire quale? Una sì, una no. L'ho raccontata a verbale, ma in questo momento su questo è stato apposto il segreto di Stato. Nel caso specifico è quello che poi è riferito alla vicenda Vieri. Io chiedo all'allora responsabile di TIM di farmi capire com'è la situazione in questo momento, e lui mi riferisce alcune informazioni. In parte erano anche oggetto della consultazione del traffico della persona in questione. Però poi sono stati acquisiti nell'inchiesta napoletana che ha indagato per istigazione al suicidio dopo la morte di Adamo Bo, muove anche dei post-it con delle segnalazioni, con delle richieste. Molti altri clienti interni, assolutamente sì. Ma questo fa il parallelo col fatto che Cipriani lavorava per decine di altre aziende italiane in cui non è mai stato contestato, e lavorare nei stessi modi e fa il paio col fatto che molte persone non sono mai state coinvolte nell'indagine. Ma che se svolge qualcuno venisse a un certo punto lo sfizio, mi passa il termine poco tecnico, di andarsi a sentire quello che viene intercettato, ne ha la possibilità, ne ha i mezzi? Possibile è possibile tutto tecnicamente. Che sia probabile? Molto improbabile. E richieste invece dai cosiddetti ambienti istituzionali? Mai. C'è stata una discussione molto ampia rispetto al fatto che i servizi potessero richiedere o meno noi tabulati, perché queste richieste avvenivano. E per la legge del tempo non era ammesso. E abbiamo dovuto dire di no all'epoca dirigenti del SISDE che avevano una certa urgenza. È ancora aperto tutto il capitolo distruzione dei dossier. Che cosa c'è all'interno Nulla. Di questi dossier? Nulla. È giusto distruggerli perché comunque le informazioni che possono essere non sono di danno o non possono nuocere a nessuno. Però, visto che su questo si è creata una tale aspettativa... Tra i dossier più contestati c'è il famoso famigerato Oakfound. Non è depositato, quindi non è conoscibile. Però è conoscibile quello che è stato raccontato. Tronchetti, nella ricostruzione della vicenda Oakfound, dice che nel momento in cui lei gli riferisce di queste informazioni raccolte, lui le dice: se ritenete, portatele alla magistratura. Non ho memoria di una conversazione del genere. Sono passati tanti anni. Lei ha una buona memoria, non faccia finta di non ricordarselo. Sono vecchio, sì. Allora, com'è andata la vicenda Oakfound? Riguarda al momento dell'acquisizione da parte di Olimpia del pacchetto di controllo Olivetti da Bell. All'interno di Bell c'era questo fondo Oakfound di cui non si capiva chi fossero i beneficiari. Visto che c'erano voci, rumor che questi beneficiari potessero essere manager stessi ancora in azienda, si sarebbero garantiti come dire una certa liquidazione, o addirittura qualcuno, forse questo Tronchetti non se lo ricorda, ipotizzava che fosse lo stesso Tronchetti beneficiario indiretto di questa operazione, si decise di capire chi fosse dietro Oakfound. Questo fu una cosa che durò molto tempo, fece il giro del mondo fino ad arrivare a un'ipotesi di Cipriani, che al momento in cui questa ipotesi non attribuiva quel fondo a manager o a persone interessate all'azienda, si decise che non era più di nessun interesse. Ecco, però a quel punto il risultato di queste informazioni furono riferite. Certamente di sì. Ecco, il momento in cui lei riferì alla presidente i risultati di questo dossier, che risposta ebbe? Bene, basta, fine, fermiamoci subito qua, non ci interessa. Ci sono state altre vicende, parlavamo di Telecom Serbia. La vicenda sulla cessione di Telecom Serbia passò anche attraverso di noi. Tronchetti a verbale racconta che aveva chiesto referenze sul suo caso al sottosegretario Gianni Letta. Sì, sì, anche su questo io ne ho una versione diversa, riferita a me da Tronchetti. Io mi sospendo dopo che subisco la perquisizione nel maggio del 2005. A luglio c'è l'attentato a Londra, ci fu un blackout telefonico, ci domandò, se lo domandò il governo, se lo domandò Tronchetti stesso o Telecom, se noi saremmo stati in grado di supportare dal punto di vista della rete un evento come quello, che per fortuna non si è mai verificato, garantendo le telecomunicazioni di emergenza. Si attivò un progetto che era sulla sicurezza e Tronchetti mi chiese di assumerne, diciamo, il coordinamento insieme all'incarico di CEO della Romania. Lui a me disse: ho chiesto a Letta se c'erano problemi e lui mi ha detto che no, anzi. Ma lei l'ha conosciuto, però tenga Letta? Presente, sì, svariate volte. Tenga presente che però a gennaio del 2006 io sto per rientrare in Telecom. Cioè Tronchetti stesso mi vuole indietro in Telecom. Poi dopo questa cosa tramonta per effetto del famoso CD trovato o fatto trovare da Cipriani ai carabinieri. Le circostanze in cui ha incrociato Letta? Ma sono stato inviato 2 o 3 volte da Tronchetti a trasmettere delle ambasciate o dei plichi o delle informative. Un caso specifico, fui invitato ad andare con urgenza da Letta perché Letta era stato contattato da rappresentanti della Kroll che chiedevano a lui se era il governo era d'accordo o meno a rilasciare informazioni che erano di grave danno a Tronchetti, danno reputazionale, e Letta gli aveva detto assolutamente no a questo interlocutore, e quindi Tronchetti mi mandò per capire che cosa stava succedendo, portando anche una nota che spiegava il contenzioso fra noi, Daniel Dantas, e il ruolo che Kroll aveva in questa vicenda. E oggi cosa fa Giuliano Tavaroli? Aiuta una nuova azienda che si chiama Dual Risk Management di Brescia a sviluppare un modello di gestione dei rischi per le imprese italiane all'estero e in Italia. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre interviste delle Storiacce sul sito radio24.it e troverete lì molte altre interviste dedicate a questa inchiesta. Scrivetemi, ciao, a sabato.